L'inchiesta del giornale spagnolo ABC, che parla di soldi di Chavez arrivati a Casaleggio 10 anni fa, scuote la politica e si innesta in una fase delicata per il Movimento 5 Stelle, che ha stati generali ancora in corso, ha pandemia non ancora finita, dibatte di congresso, guida del movimento, ruolo di Giuseppe Conte, di Beppe Grillo e via discorrendo. Stati generali in corso che ieri hanno visto protagonisti i sindacati con richiesta di proroga del blocco dei licenziamenti, mentre l'esecutivo annuncia un'estensione della cassa integrazione, arriva ad ipotizzare un'agenzia per le politiche passive del lavoro. Pandemia ancora in corso, con i dati di ieri che indicano ancora un discreto numero di contagi in Lombardia, oltre 200, e riaccendersi di focolai in Cina, dove a Pechino si chiudono interi quartieri. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Do what I want in any old town. I'm free to do what I want in any old town. So love me, hold me. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Eccoci anche oggi. Sono le 6:34 minuti e 12 secondi. È martedì 16 giugno. La task force di questa mattina si compone di Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, insieme a Giorgio De Luca e a Gloria Guerrera, e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E voi, la grande task force di 24 Mattino, vi aspetto come sempre al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, ma anche per i messaggi scritti, se volete, ovviamente. Se non ce la fate proprio alle 6:35 con la voce da sonno, scrivete che vi leggo. Allora, da cosa iniziamo oggi? Dalla vicenda della quale vi abbiamo riferito ieri, arrivata in corso d'opera ieri durante 24 Mattino, questa notizia, il quotidiano ABC, il quotidiano spagnolo, che parla di questi 3,5 milioni di euro arrivati con una valigetta e consegnati al console venezuelano a Milano, Di Martino, per poi farli arrivare a Gian Roberto Casaleggio. Mettiamola così, adesso ci sentiamo un po' di voci su tutto questo, però a prescindere da che la storia sia confermata oppure no, c'è questo documento dei servizi venezuelani sul quale viene fatto filtrare dai servizi italiani tramite le solite fonti, che ci sono molti dubbi, per carità. Il giornalista per conto suo, che fa parte di un grande consorzio internazionale di giornalisti investigativi, dice: no, guardate che ho conferme da più fonti di questa cosa. A prescindere da tutto, apre la questione sulla nostra collocazione internazionale, sulla nostra politica estera, sui nostri rapporti con alcuni regimi, Comunque iniziamo con qualche voce, va, con il console Di Martino, che nega. Quello che mi chiama l'attenzione veramente è che questa è una notizia vecchia, è uscita già nel 2016, oggi nasce in Spagna e scoppia in Italia, e scoppia praticamente non nemmeno quando valutiamo attacca, ma non c'è repercussione sopra il governo di Maduro, c'è più repercussione sopra il Movimento 5 Stelle. Allora, se c'è repercussione sopra il Movimento 5 Stelle, ci sono interesse politiche contro il Venezuela, però pure contro il Movimento 5 Stelle. Ho il console Di Martino che oggi regala questa perla in un'intervista al Corriere della Sera, Corriere della Sera che affianca a pagina 4 l'intervista al console, l'intervista al giornalista spagnolo di ABC, e la perla è questa, Forse la repressione di Maduro, non so se ve la ricordate, però insomma fateci un attimo mente locale e sentite qua. Però l'accusa che arriva dalla Spagna è pesante, chiede Stefano Landi. Alle opposizioni radicali fasciste che hanno il loro epicentro a Madrid interessa solo il denaro. Vivono della diffamazione e non perdonano la vittoria del presidente della pace e dell'amore, Maduro. Ma dai. Un anno fa... Guaidó che tenta di installarsi come presidente venezuelano dall'opposizione, appunto la repressione di Maduro. Così parlava Di Battista. Il mio suggerimento non è sostenere Maduro. Per me si può anche arrivare a elezioni, ma il mio suggerimento è che l'Italia, mi augurerei tutta l'Unione Europea, seguisse la strategia di Messico e Uruguay. Tra l'altro il Messico ha da poco ha avuto un cambio di un presidente, ha vinto López Obrador con una vittoria schiacciante in Messico, che si sono appunto proposti per un tentativo di mediazione tra forze dell'opposizione e diciamo governo. Così Manlio Di Stefano, sottosegretario agli esteri. Noi non difendiamo nessuno e non ci interessa difendere nessuno. Noi diciamo che nessun paese estero può imporre un presidente a un paese terzo, che chi è quello che ci si chiede. E chi l'ha imposto? Beh, chi oggi riconosce Guaidó sta dicendo che sceglie a posto dei venezuelani. Noi non scegliamo a posto dei venezuelani. Noi... Anno 2015, congresso sul Venezuela alla Camera dei Deputati, presenti sul palco gli stessi Di Stefano e Di Battista, e va così. Voglio fare un grande applauso al governo Maduro, al popolo bolivariano, ai compagni venezuelani che stanno subendo un attacco senza precedenti di guerra militare terroristica, di terrorismo. Indovinate chi c'è tra la gente che applaude? Anche Di Stefano e Di Battista. Con ciò non si vuol dire che quei 3 milioni e mezzo sono arrivati, non lo sappiamo. Cara Flavia Perina, come stai? Giornalista, scrive per l'Inchiesta. Allora Flavia, qua insomma vedremo che cosa uscirà. Ci sono oggettivamente, diciamocelo, degli elementi strani in quel documento. Molti giornali sottolineano oggi, poi per carità, ripeto, questo giornalista è un giornalista molto serio, quindi io non dubito che abbia fatto la verifica delle sue fonti e via dicendo. Però c'è una questione generale, no, che passa dal Venezuela, che transita dalla Cina, se vogliamo, e che ha a che fare con come ci collochiamo internazionalmente. Non a caso ieri Di Maio si è affrettato a dire la nostra fedeltà all'atlantismo è fuori discussione. Si sono accorti con un po' di ritardo, diciamo, che c'è un gioco pericoloso nelle relazioni internazionali che ha punito entrambi i partiti a forte caratura populista italiano. Il 5 Stelle adesso, con questa storia del Venezuela che è tutta da verificare, che potrebbe lo stesso giornalista potrebbe essere stato ingannato da un documento o da più documenti falsi, lui dice che ha altre carte, vedremo, ma che ha colpito anche in passato la Lega con le relazioni con la Russia. Ecco, uscire dal perimetro delle alleanze come 6, 7, 8 anni fa hanno tentato di fare questi partiti che all'epoca non erano così affermati, non erano forze di governo, ritenevano di avere le mani libere per poter avviare giochi in qualche modo pericolosi sullo scacchiere internazionale, non porta bene. È qualcosa che poi si è costretti a rimpiangere quando poi si arriva a posizione di governo, perché le alleanze internazionali, i giochi in Italia si possono fare tutti con grande facilità, ma le alleanze internazionali sono qualche cosa in più, sono qualche cosa di più solido, di più rigido, e qualche cosa che è molto complicato modificare o prendere a picconate come hanno fatto in passato alcuni partiti. italiani. Sì, ci devono essere degli assi che permangono, no? Dei rapporti che permangono, e in questa fase soprattutto, quando tu ti rivolgi a una determinata forza, fai una scelta, e quindi il tenere il piede in due scarpe, come era in parte possibile per l'Italia, per la famosa Italietta degli anni Ottanta, quella citata da Salvini, questo non è più possibile, purtroppo. Ma in realtà non è anche quell'Italia tenere il piede in due scarpe. Già. L'Italia alla fine è vincolata a un sistema di alleanze occidentali che non può essere messo in discussione, mentre invece il Movimento 5 Stelle sulla vicenda venezuelana lo ha messo pesantemente in discussione. Noi credo siamo stati l'unico paese che all'epoca della crisi venezuelana non sottoscrisse le prese di posizioni europee in favore di Guaidó e contro la repressione di Maduro. Ci siamo esposti su quello scacchiere. E forse non è stata una buona idea, forse comunque se ne cominciano a accorgere anche ora, sì, che non è stata una buona idea. Sì. Il tutto avviene in una fase, come già diciamo, piuttosto delicata per il Movimento 5 Stelle. Io l'ho detto ieri e lo ribadisco anche oggi, sono un po' perplesso di fronte a delle manovre congressuali, delle manovre interne in una fase così delicata per il paese. E però, insomma, i segnali che stavano arrivando dal movimento, di tensioni interne al movimento, erano forti già da tempo. Però, ripeto, esprimo la mia perplessità. Di Battista sull'accordo con Grillo. Vabbè, se non siamo d'accordo, dice amen. Perché ha risposto così? Beppe Grillo, è come se avesse detto che questa proposta era un po' fuori dal tempo, anacronistica. Invece è una proposta in cui credo, dato che sono anche una persona riconoscente, oggi ci pensavo proprio che anche se manda a quel paese una mia proposta, se ho avuto l'opportunità di farla è merito suo insieme di Gian Roberto. Io vado un pochino oltre, oggi ho letto ciò che ha scritto ieri Grillo sull'acqua pubblica e per me quella è la linea, per cui la sposo. Poi ho delle idee, se non siamo d'accordo, francamente amen. Così Di Maio. Io sono sicuro che siamo prima di tutto dalla stessa parte, cioè quella del Movimento 5 Stelle, del paese. La seconda cosa che riconosco a tutti, e in particolare a loro due, che hanno solo e soltanto energie positive da voler dedicare a questo progetto, agli italiani e al paese. Ciò che posso dirle è che mai come in questo momento di grandi difficoltà per il paese, per l'Italia, ma per il mondo intero, perché questa è una crisi economica mondiale, serve essere uniti, non divisi. Ma che noia, Flavia, sembra il PD di una volta. Con qualcosa di diverso. Loro sono di fronte alla proprio classica crisi adolescenziale, devono decidere cosa fare da grandi, se fare il partito di governo e se consolidarsi come partito di governo, oppure se recuperare il vecchio istinto del partito di lotta. Io sono convinta che questa seconda fazione sia oggettivamente perdente, i tempi del vaffa sono finiti e ci hanno tutti quanti preso gusto ad occupare posizioni istituzionali nelle quali incidono, nelle quali governano, nelle quali sono diventati improvvisamente importanti in una delle fasi più delicate per il paese in questi anni, e penso che alla fine diciamo il gruppo dei filogovernativi prevarrà senz'altro sui movimentisti. Sì. Certo, in questo momento il paese aveva bisogno di tutto perché di questo, cioè qualunque cosa andava bene perché questo, una crisi di questo tipo nel partito di maggioranza relativa, perché non dimentichiamoci che 5 Stelle è oggi in Parlamento. Sì, perché noi Flavia, a volte, perdonami, a volte noi guardiamo i sondaggi e gli diamo consistenza, certo, di realtà, mentre invece ricordiamoci che il Movimento 5 certo. Stelle in questo momento è il partito di maggioranza relativa. Certo, quindi, è quello che deciderà sulle misure contro la crisi, è quello che deciderà sull'enorme partita dei fondi europei che si sta per aprire, è quello che deciderà del futuro nostro e dei nostri figli. Quindi sinceramente potevano risparmiarsela in questa circostanza, potevano rinviare la loro resa dei conti. Tutti noi abbiamo rinviato per mesi i nostri affari, i nostri problemi a causa dell'emergenza, e anche loro potevano rinviare questa resa dei conti almeno di un anno e completare diciamo il lavoro che gli è stato assegnato. Non è detto che questo poi alla fine non avvenga, è traffico. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. Mattino. Però voglio dire una cosa agli amici che ci ascoltano e che votano Movimento 5 Stelle, che protestano, si lamentano perché dicono, insomma, parlate di questa crisi del Movimento 5 Stelle, ma cosa dite? Non è assolutamente vero. Guardate, non sono andato io in TV a dire che serve un congresso, è stato Alessandro Di Battista. Quindi se si apre una questione interna al Movimento aperta Alessandro Di Battista, è lui che l'ha aperta, mica me la sono inventata io. E se Grillo gli risponde in quel modo brutale, cioè è tutto su pubblica piazza in questo caso, non sono tensioni sotterranee, è fuori, sotto gli occhi di tutti. Poi possiamo dire che magari è tutto forse un gioco delle parti, non lo so sinceramente, però sostanza, cioè, scritto e televisivo, quindi più di questo che volete. La cassa integrazione. Ieri gli stati generali, ci sarà fino a quando serve, dice il Presidente del Consiglio. L'obiettivo anche a breve, i ministri Gualtieri e Catalfo l'hanno ben messo a punto, è garantire la cassa integrazione a tutti i lavoratori per tutto il tempo che sarà necessario nella fase di debolezza dell'attività economica. Così Conte, mentre nelle settimane scorse oggettivamente i pagamenti sono andati un po' a rilento, con un'accelerazione improvvisa nell'ultima settimana i pagamenti della cassa integrazione. Guglielmo Loi è Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS. Buongiorno Loi, benvenuto, eccoci. Buongiorno, buon ascolto. Allora, mi sembra che ci sia stata un'accelerazione negli ultimi giorni, il che mi fa dire, Loi, che si poteva fare anche prima, forse. Ma senz'altro, la metto così, insomma, ci si è resi conto troppo tardi che si è usata una procedura, questo sin dall'inizio della crisi e del primo decreto che risale ormai a marzo, si è usata una procedura ordinaria in tempo di guerra, come se avessimo usato, come dire, ma armi convenzionali nel pieno di una guerra nucleare. Purtroppo il paragone è abbastanza, come dire, duro. Dopodiché, quando si è capito che dall'altra parte c'era una offensiva, diciamo, drammatica, si è andati a cercare di riparare con il secondo decreto di maggio, che però, come dire, entrerà pienamente in vigore tra qualche settimana, e oggi, ieri anzi, con il terzo decreto che allunga le settimane, ma soprattutto si è usata una procedura che era da tempo di pace. Le domande prima della crisi Covid erano sempre troppe, ma insomma qualche migliaio, soprattutto su alcune tipologie di cassa integrazione. Quando ne sono arrivate centinaia di migliaia, il sistema ha avuto, diciamo, tra virgolette, molte difficoltà. Molte difficoltà. Sì. Per sistema intendo tutto, non solo l'INPS, che ovviamente è il soggetto finale erogatore, ma anche tutta la filiera, cioè l'azienda prima, collaboratori, consulenti, le amministrazioni delle aziende poi, che si sono ritrovati a gestire, come dire, migliaia di situazioni a fronte di strutture che probabilmente non erano tarate. Quindi, diciamo, l'errore, se così si può dire, è stato quello di non fare come il bonus, che ha, come dire, mille difetti e anche molto opinabile dal punto di vista dell'equità, però è stato molto efficace, nel senso paghiamo tutti e subito senza guardare in faccia a nessuno, basta che respirano, e tempo un mese sono arrivati i soldi. Sulla cassa integrazione si è deciso di usare lo strumento vecchio, sì. E questo ha prodotto questo risultato, che a tre mesi dal primo decreto mancano ancora decine di migliaia, centinaia di migliaia. Metto il punto interrogativo perché bisognerebbe aprire una finestra anche sulla chiarezza dei dati. Cioè non c'è nemmeno chiarezza dei dati, Eloy? Ma gli statistici ci dicono che è sempre bene non mischiare le pere con le mele. Qua siamo nel pieno della Macedonia, nel senso che una volta si usa il dato tra virgolette sociale, quante sono le persone che stanno in cassa integrazione, poi si usa il dato amministrativo, quanti sono i certificati famosi, ormai mitici, SR41, che sono arrivati all'INPS, che sono due dati diversi, uno è un dato appunto sociale di persone, l'altro è un dato amministrativo. Mischiare tutte e due ha confuso l'opinione pubblica, con il risultato che ancora oggi ci sono due partiti, che chi dice che mancano 500.000 persone e chi dice che ne mancano 28.000. Ovviamente immaginate chi dice 28.000 e chi dice 500.000. Secondo me dal punto di vista sociale ne mancano centinaia di migliaia. Dal punto di vista della responsabilità diretta di vari soggetti, tra cui l'INPS, probabilmente col dato amministrativo sono di meno, ma il risultato, detto francamente, cambia poco. Mi scusi, quindi noi al momento non sappiamo quante persone non hanno ricevuto la cassa integrazione? Noi sappiamo quanti sono i dati amministrativi che portano a dire che ne mancherebbero circa, questi sono dati dell'INPS di ieri sera, in versione diciamo critico, amministrazione, ne mancano 28.000 per domande vecchie e 100.000 per le domande dopo il 1 giugno. Capisco che l'ascoltatore è un po' sconcertato, qua è un problema di scarico di responsabilità, perché la parte amministrativa dell'INPS dice: io posso pagare se l'azienda mi manda il certificato entro una certa data, dopo pagherò, ma non è più colpa mia se facciamo tardi, traduco, Sì. La persona, il lavoratore, tutte queste dinamiche giustamente non le conosce, e se prendiamo il lato lavoratore, sempre su dati INPS, ne mancano almeno 120.000, io aggiungo che mancano tutti quelli che la cui azienda ha fatto la domanda e che l'INPS non ha ancora autorizzato. Non ha ancora autorizzato. Guardi, noi dobbiamo chiudere, siamo andati un po' lunghi oggi. Grazie Guglielmo Loi, grazie Flavia Perina. Ci risentiamo alla prossima GR24 e poi la rassegna stampa.